Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ancora incertezza sulla trattativa in corso tra il governo al Ministero dello Sviluppo Economico e la ST di Terni. Sapete che è una vicenda che seguiamo da vicino, anche perché in ballo, come ripetiamo, c'è in primo luogo l'occupazione dei dipendenti, ma anche vedere se questo paese riesce a darsi prima o poi un sistema e un'idea di politica industriale anche nel settore acciaio, ma anche nel settore alluminio. Oggi se ne è parlato a Roma, la presenza anche del vice ministro De Vincenti. Il settore alluminio segue l'andamento del settore acciaio, ossia a fronte di un aumento della domanda internazionale c'è stata una continua riduzione dei siti produttivi in Europa e anche in Italia. La vicenda Alcoa alcuni di voi la ricorderanno, con la conseguenza che noi, che restiamo secondo produttore, ma a livello europeo praticamente quasi la metà degli impianti hanno chiuso. Dicevo comunque della ST di Terni, l'incontro c'è già stato questa mattina, un primo incontro tra i sindacati, i numeri uno della ST di Terni, e quindi Lucia Morselli, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, il sottosegretario del lavoro Teresa Bellanova e i vari rappresentanti appunto delle istituzioni sindacali. I sindacati puntano, come ci spiegava già ieri la rappresentante dell'UGL, a levare il limite dei 2 anni. Cioè, ieri la casa madre ThyssenKrupp ha detto sostanzialmente che adesso i 2 altiforni resteranno aperti per 2 anni, poi si vedrà anche alla luce dell'occupazione. Oggi la trattativa va avanti comunque a oltranza, lo ha confermato appunto il segretario generale dell'UGL Metalmeccanici Maria Antonietta Vicaro, e vedremo se riusciremo a averla anche oggi in collegamento o se la trattativa sarà anche fra un'ora in corso. Per quello che riguarda invece gli altri temi della giornata economico-finanziaria, ci occuperemo di trasporto e di settore aereo, perché l'occasione ci viene fornita da un accordo firmato oggi da Trenitalia con una delle principali compagnie al mondo, che si chiama Emirates. Molti di voi la conosceranno, abbiamo già trattato il tema Emirates e concorrenza nel settore del trasporto aereo. Oggi sostanzialmente si è svolto il primo accordo di un insieme di passi che porteranno alla completa integrazione del sistema treno più volo, che si potrà pianificare con pochi clic al computer. Praticamente si arriverà ad avere un unico biglietto, poi ne parleremo in maniera più diffusa, aereo-treno. Questo è importante, perché lo dico, perché in molti altri paesi, penso in primo luogo alla Francia, l'alta velocità, quindi l'equivalente dei nostri Frecce Rosse e TGV, già servono direttamente gli aeroporti, e quindi nel caso di Malpensa, visto che ci stiamo preparando all'Expo, ma non solo, varrebbe chiaramente anche per Fiumicino, l'assenza dell'alta velocità che ti collega direttamente all'aeroporto è un handicap, ma non ci vuole molto a capire che tutto il tempo che risparmi con l'alta velocità rischi di essere vanificato nel passaggio dal treno all'aeroporto se non c'è una stazione, come avviene, ripeto, nei principali aeroporti europei, se non c'è una stazione che ti collega con l'alta velocità direttamente in aeroporto. Ma sarà anche l'occasione per ragionare sui concorrenti Alitalia e Etihad. Infatti Emirates rafforza la presenza in Italia, ma è della settimana scorsa la notizia del via libera di Bruxelles all'operazione che vedrà Etihad, quindi la compagnia di Abu Dhabi, essere il socio di maggioranza di Alitalia, e sappiamo che Abu Dhabi, e quindi Etihad, punta molto sull'utilizzo di Fiumicino come hub per la costa americana, per gli Stati Uniti e il continente comunque americano, mentre vuole usare più che altro Linate, per quello che riguarda Milano, per portare passeggeri in altre destinazioni, usando in quel caso soprattutto anche Dubai come Abu Dhabi come hub. Emirates invece, che è sempre degli Emirati ma appartiene a Dubai, sta già usando Malpensa moltissimo come aeroporto di smistamento soprattutto verso Dubai. Per quello che riguarda invece la borsa, oggi è una giornata positiva a Milano, E devo dire però più debole rispetto a altre borse europee, più 0,36% Milano, l'1,50 lo guadagna invece Francoforte, lo 0,70 Parigi, lo 0,50 Londra e l'America guadagna lo 0,23%. Va particolarmente bene oggi Buzzi Unicem, più 6%, di nuovo Yux, più 4%, Tod's, più 3,70, Moncler, più 2,30. Pop Milano più 2,13, Wow Duty Free più 1,90, ST Microelectronics più 1,70, Snam più 1,60, Enel Green Power più 1,5, come la popolare Emilia Romagna. Chiudo con Campari, Saipem, Prismian e Pirelli, ma anche Fiat Chrysler, che guadagnano tutte l'1,20%. Negativa invece Mediaset di 1,5%, Finmeccanica dell'1,20, Monte dei Paschi dell'1, Telecom dell'1 e UbiBanca dello 0,60%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio sempre in calo a New York a $75.28. Per quello che riguarda invece il Giappone, ieri ci siamo occupati della doccia fredda che è arrivata dal Giappone dopo, nonostante la cura, la cosiddetta Abe Economics, siccome la frenata brusca dei consumi che ha portato il Giappone in recessione tecnica era dovuta anche all'operazione sull'IVA dal 5% all'8%, il governo adesso sta pensando di rinviare l'ulteriore aumento dell'IVA. Doveva essere portata al 10%, la borsa di Tokyo oggi ha chiuso positiva del 2,18%, mentre i media giapponesi comunque ritengono che dopo il dato economico vacilli pesantemente la leadership di Shinzo Abe, del Presidente del Consiglio, e quindi secondo molti media nipponici le elezioni si terranno il 14 dicembre, elezioni politiche anticipate per il rinnovo della Camera Bassa. Andiamo con le notizie europee invece. Per quello che riguarda il mercato dell'auto, è cresciuto per il 14° mese consecutivo il mercato europeo dell'auto. Le immatricolazioni sono state 1.112.000, il 6% in più rispetto all'ottobre del 2013. Per quello che ha a che fare con il gruppo Fiat, la notizia è buona, nel senso che ha immatricolato l'8%, l'8,5% in più, con una quota che è salita leggermente al 5,9%, e quindi un dato per Fiat Chrysler Automobiles superiore alla media di incremento del mercato. Le auto, i modelli più venduti sono stati, per quello che riguarda Fiat Chrysler, la 500 e la Panda, però tutti i marchi sono cresciuti, più 5,2 Fiat, più 3,9 Lancia, più 4% Alfa Romeo, più 74% il marchio Jeep. E i dati, buoni dati anche sull'immatricolazione della Panda, hanno permesso, lo ha fatto sapere appunto il gruppo Fiat Chrysler, di revocare i 4 giorni di cassa integrazione nello stabilimento di Pomigliano Napoli, erano previsti per il 20, 21, 24 e 28 novembre. Allora, c'è un'iniziativa del Ministero del Tesoro che è un'iniziativa che entra nell'alveo, sulla scia di come comunica questo governo, con molti tweet, e c'è un nuovo hashtag su Twitter che è hashtag Pride and Prejudice, prende immagino spunto dal famoso libro Orgoglio e Pregiudizio, perché l'orgoglio è rappresentato dal fatto che, come recita anche il Twitter, l'Italia è da 20 anni in cima alla graduatoria per avanzo primario, e poi vuole sfatare un insieme di miti. Cos'è l'avanzo primario? È la differenza tra entrate e uscite di uno Stato prima di pagare gli interessi sul debito. È un dato fondamentale, perché al di là degli interessi che devi pagare ogni anno sul debito acquisito, ti dice come sta andando la gestione corrente dello Stato italiano. Ebbene, noi siamo tra i primi al mondo per avanzo primario, poi abbiamo oltre 70 miliardi di interessi sul debito da pagare ogni anno, e quindi l'avanzo primario viene bruciato da questo. A questo proposito, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha detto che si aspetta che sarà riconosciuto dall'Unione Europea lo sforzo anche qualitativo sia sul bilancio che sulle riforme strutturali. Sono stufo di sentirmi dire che chiediamo soldi ma non sappiamo spenderli. Ora abbiamo presentato i progetti, lo ha detto il Ministro dell'Economia durante un convegno organizzato da Telecom Italia, ricordando che l'Italia ha presentato progetti per 40 miliardi di euro di investimenti e che servono comunque progetti bancabili e risorse che finanzino questi progetti. Uno dei temi di continua discussione, certamente in sede europea, è il seguente: per fare gli investimenti servono più risorse o più progetti? La risposta che do io è che ci vogliono tutti e due. Ci vogliono cioè progetti, come si dice con un pessimo termine, bancabili, e ci vogliono risorse che finanzino questi progetti. Da questo punto di vista, il piano Juncker, che ancora dobbiamo vedere, credo che si baserà su questo principio, cioè sul principio che le risorse sono pubbliche, ma soprattutto dovranno essere private, e che per mobilitare queste risorse bisogna mettere in campo progetti interessanti. Questo tema, lasciatemelo dire, è stato posto al centro del dibattito dalla presidenza italiana dell'Unione Europea quando ho cominciato a entrare in questa funzione, cioè dal 1 luglio, prima che il piano Juncker fosse annunciato. Abbiamo individuato assieme alla BEI, assieme agli stakeholders, assieme a tutte le parti interessate, progetti che se finanziati richiederebbero 40 miliardi. Sottoporremo questi progetti all'Europa, quindi al meccanismo messo in piedi, e quindi pensiamo che questa volta non ci potranno essere scuse alla vecchia questione che in Italia, anche se ci sono i soldi, non si riescono a spendere. Riferimento anche un po' polemico del ministro Padoan era chiaro, riferimento anche al piano Juncker. Il piano Juncker è quel piano che il neo presidente della Commissione Europea ha annunciato da 300 miliardi di euro. Non abbiamo ancora dettagli, speriamo che non debbano essere spesi tutti quanti in Lussemburgo i 300 miliardi di euro, viste le polemiche che hanno travolto Juncker sulla vicenda LuxLeaks. Chiaramente questa è una battuta, però vediamo se sono soldi, vedremo se sono e saranno soldi freschi oppure partite di giro. Sempre il ministro dell'economia italiano, però, intervistato dal vice direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché, ha detto oggi: attenzione, il PIL tornerà ad avere segno più nel 2015 in base a tutte le previsioni che stiamo analizzando. I numeri del 2014 sono tuttavia ancora negativi. In base alle previsioni, l'anno prossimo. Quest'ultimo trimestre che previsioni abbiamo? Quest'ultimo trimestre è un trimestre che io mi aspetto continuare a dimostrare quello che sta succedendo, cioè la macchina sta smettendo di scendere e comincerà a risalire. Questo sono quello che i numeri ci dicono, sono ancora negativi, quindi si scende ma in valore assoluto sono più bassi, quindi si sta rallentando la discesa, prima o poi la discesa si ferma e comincia a risalire. Questo è quello che mi aspetto. E ultimo passaggio, un intervento del ministro dell'economia Padoan, sempre in tema di scenario economico del paese. Compito del governo è di mettere le imprese nelle migliori condizioni per investire e quindi diciamo creare un ambiente favorevole alle imprese, sempre intervistato dal vice direttore del Sole Fabrizio Forché. Se il punto è un rapporto continuo tra le imprese e il governo, questa è la risposta alla domanda, sicuramente sì, anche perché è il nostro modo di lavorare e credo che lo stiamo dimostrando nei fatti, quindi con tutte le imprese, naturalmente poi nel rispetto della indipendenza reciproca, le strategie delle imprese sono decise dalle imprese, la strategia del governo è decisa dal governo, ma ovviamente è interesse di tutti far ripartire il paese, è interesse di tutti, sicuramente in Italia, ma non solo, far ripartire gli investimenti. Lasciatemi dire una sola cosa macroeconomica. La situazione macroeconomica è evidentemente non soddisfacente, per usare un understatement. C'è però, e questo lo riporto dall'Australia dove sono stato al G20, ma come lo riporto dai consigli europei, dai COFIN che in questo momento l'Italia presiede, c'è un totale accordo sulla necessità di far ripartire gli investimenti pubblici certamente, ma soprattutto investimenti privati. Quindi il compito del governo e dei governi, sicuramente la mia idea del nostro compito, è quella di mettere le imprese nella migliore condizione per investire. Senza investimenti non c'è ripresa dell'occupazione, senza ripresa dell'occupazione non c'è ripresa della fiducia. Però con investimenti, occupazione e fiducia c'è la ripresa della crescita. Poi ascolteremo altre dichiarazioni del ministro e del ministro dell'economia e del ministro del lavoro in tema di Jobs Act. Vorrei arrivare però ad altre due notizie prima di passare al tema della concorrenza nel trasporto aereo, che significa sì la possibilità di permettere ai nostri imprenditori e manager di volare all'estero con vantaggi o almeno non svantaggi competitivi, il cosiddetto outcoming, ma significa anche la possibilità di portare turisti e manager in Italia, no? L'incoming, su questo abbiamo compiuto degli errori clamorosi, l'abbiamo detto mille volte all'Italia negli anni passati, concentrandosi solo soprattutto sulla tratta nazionale, non sulle rotte profittevoli, quelle verso l'Asia in primo luogo, il Medio Oriente e paesi OPEC in secondo luogo. Comunque, una notizia ancora riguarda, sapete che spesso ci occupiamo anche di criminalità, perché purtroppo c'è una componente fortemente economica nella criminalità. Allora, questa mattina all'alba vi è stata un'operazione che i nostri GR24 hanno già raccontato, della DDA di Milano, 40 arresti, un'operazione contro l'andrangheta, nelle province di Milano, Como, Lecco, Monza, Brianza, Verona, Bergamo e Caltanissetta. 40 indagati per associazione mafiosa, estorsione, detenzione, porto abusivo di armi. E poi lo trovate anche sul sito di Radio 24, un video, sono alcuni video veramente sconcertanti sulla cerimonia di affiliazione di tre gruppi dell'andrangheta radicati nel Comasco e nel Lecchese, con saldi collegamenti con le cosche calabresi di origine e diffuse infiltrazioni nel tessuto locale. L'insicurezza, perché ne parliamo in chiave economica? Perché l'insicurezza e l'incertezza della legalità è uno dei motivi della recessione di questo paese e anche dei mancati investimenti esteri, come ha ricordato nei 100 secondi di Radio 24 con RDS, con Radio Dimensione Suono, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi, con i 40 arresti decisi dai PM di Milano per altrettanti presunti aderenti all'andrangheta, abbiamo avuto un'ulteriore riprova che le mafie, con il loro medioevo di violenza e subcultura, aggrediscono gli apparati 2.0 della zona più dinamica del nostro paese. C'è una grande criminalità economica in espansione e una microcriminalità di territorio purtroppo in crescita. Secondo gli ultimi dati del Sole 24 Ore aumentano le persone arrestate e ormai sono quasi 1 milione l'anno. Ci sono però meno omicidi, meno furti d'auto, ma più furti in casa e più borseggi in strada. Nelle periferie poi sta salendo la temperatura dei conflitti sociali tra nuove povertà. A Roma, ma anche a Milano e a Torino, diseredati italiani contro disperati immigrati. Nel mezzo cresce e prospera la cultura dell'antagonismo. A questi focolai si affiancano i numerosi conflitti sociali, conseguenze della crisi economica. E sono ormai 500.000 i posti di lavoro a rischio. Quasi 1 milione se ne sono persi da quando la crisi divampa. La violenza verbale della disperazione a volte trascende in violenza vera. Vi chiederete cosa c'entra questo con una rubrica che spiega l'economia. C'entra perché è chiaro che questa situazione di insicurezza generale e diffusa è un fatto economico, perché interferisce sulla cosiddetta fiducia, che è l'ingrediente primo per crescere, per credere nel futuro, per investire, creare sviluppo, occupazione e quindi reddito. Questi problemi naturalmente hanno origini e complessità diverse, ma la loro soluzione passa da una nuova stagione di investimenti pubblici e privati che possa far ripartire tutti i settori dell'economia, altrimenti resta solo la cappa plumbea della sfiducia, che è la vera materia prima della recessione. Allora. Allora, grazie Alberto Rioli. È vero che c'è un legame molto forte tra fiducia nella legalità e capacità di attrarre investimenti, oltre che di fiducia complessiva nel paese. Tra le capacità di rendere e tra gli elementi che rendono un paese attrattivo quanto agli investimenti, e nella classifica Doing Business noi continuiamo a essere messi male, c'è anche il suo sistema infrastrutturale. Allora cogliamo l'occasione di un accordo firmato oggi tra Trenitalia, quindi l'ex Ferrovie dello Stato, e Emirates, una delle principali compagnie aeree al mondo, ha 79.000 impiegati, ha sede a Dubai. È un accordo che dovrebbe essere il primo passaggio, se ho ben capito, per arrivare finalmente anche in Italia alla connessione aereo-treno, come avviene in Olanda, in Francia, in tutti i paesi, diciamo, civili e moderni, per cui tu l'alta velocità la porti, come è ovvio, anche dentro i principali aeroporti. Ma è l'occasione anche per ragionare di altri temi e del ruolo che avrà all'Italia con il 40% di Abu Dhabi dentro. Ringrazio quindi il direttore generale di Emirates Italia per averci raggiunto in studio, Fabio Maria Lazzarini, buonasera. Grazie mille, buonasera, grazie a lei e agli ascoltatori. Dunque, prima cosa sull'accordo. Allora, l'accordo l'avete fatto con Trenitalia, si chiama Treno più Volo. Per adesso è, diciamo, una cosa commerciale, cioè che io comprando un biglietto aereo ho anche un biglietto del treno. Quando arriveranno i binari per l'alta velocità sia a Fiumicino che a Malpensa? Beh, noi li aspettiamo con ansia, nel senso che siamo particolarmente interessati, tanto quanto Trenitalia, al portarci di prima velocemente. È stato fatto recentemente, nel mese di settembre, annunciato durante il meeting di Comunione e Liberazione, l'accordo tra il Ministero, annunciato dal Ministro Lupi, e il Presidente di Ferrovie dello Stato per portare l'alta velocità nei tre aeroporti principali. Lei sa che il Ministro Lupi ha pubblicato il decreto aeroporti, quindi il piano strategico, certo, degli aeroporti italiani, dove sono stati definiti gli aeroporti strategici, i tre che ho citato, quindi Venezia, Fiumicino, Milano, Malpensa, Venezia e Roma Fiumicino. Esatto, certo. In questi tre aeroporti principali, definiti strategici dal piano, verrà portata l'alta velocità. È una cosa però che non succederà prima della fine del 2016. Però le Ferrovie dello Stato, se non ricordo male, hanno annunciato che per quello che riguarda Fiumicino si arriverà già da dicembre con i Frecce Argento. Allora chiarisco una cosa, il Frecce Argento viaggia veloce perché obiettivamente è quello che collega Venezia con Roma e anche Verona con Roma via Bologna. Ha, tra virgolette, il vantaggio, viaggia un po' più piano del Freccia Rossa, però ha il vantaggio che viaggia sulla vecchia linea, non ha bisogno della linea nuova alta velocità, e quindi quello è già portabile, diciamo, a Fiumicino, capito bene? Infatti succederà a partire da metà di dicembre, dove arriveranno due coppie di Freccia Argento direttamente dentro la stazione di Fiumicino, e questo comincia ad avvicinare Fiumicino alla città. Alla città e anche a chi dovesse prendere il treno da Firenze o paradossalmente anche da Bologna. Esatto. Perché comunque il Frecce Argento, se ben ricordo, sulla tratta ad alta velocità viaggia quasi non a 300, a 300, vicino, mi sembra a 260 vicino. All'ora, esatto. Se vado a memoria. Per cui è comunque conveniente. È chiaro che è meno utile per sul Milano-Roma, ma obiettivamente adesso con tutto è vero che ci sono dei voli che partono solo da Roma e non da Milano, ci mancherebbe, soprattutto all'Italia. Però diciamo è più importante collegare anche Verona, Venezia, Bologna, Firenze intanto con Fiumicino. Per i binari invece a Malpensa e l'alta velocità comunque sia su Venezia che su Fiumicino? Ci vorranno almeno un paio d'anni, nel 2016 gli investimenti verranno presentati, lo raccontava anche oggi il direttore di Trenitalia alla nostra conferenza stampa, verrà presentato il piano al ministro entro il mese di dicembre con tutto il piano di dettaglio per arrivare alla consegna dell'alta velocità in questi tre aeroporti principali. Ecco, faccio notare che, visto che molte volte ci siamo occupati di Malpensa come così tallone d'Achille delle strategie di Alitalia, abbiamo fatto intere puntate negli anni passati, 2008-2007, sull'errore nel ritenere che Malpensa e Linate potessero convivere. Ormai questa disputa è superata, nel senso che Etihad dall'Italia ha fatto sapere che terrà qualcosa su Malpensa, molto cargo, qualche volo commerciale, ma punta molto su Linate e Fiumicino. Però devo dire che nel momento in cui arriverà l'alta velocità a Malpensa, anche un insieme di polemiche sulla dislocazione geografica, un aeroporto che serviva più la Brianza, Varese e Milano, che altre regioni, potrebbero essere superate, perché non è difficile immaginare che da Torino o da Verona o da Padova uno possa andare con l'alta velocità. A quel punto diventa sì più competitivo che non volare su Monaco o Francoforte. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire invece come vi state preparando alla sfida che immagino vi lancerà Etihad, perché voi siete cugini come miri, diciamo, come siamo vicini di casa, più che altro. Vicini di casa, ci credo, da Abu Dhabi a Dubai la si fa in macchina in 3 ore, però siete molto concorrenti quanto a compagniere. Molto, assolutamente. Una cosa, è vero che voi ormai avete solo gli aerei, quelli che si chiamano wide body. Sì, cioè sì, che sì. Sono quelli enormi, non avete più aerei normali? No, abbiamo ancora un po' di 330, 320 che stiamo dismettendo. Il resto, ma a livello mondiale? 7, a livello mondiale, sì. In Italia, per esempio, vogliamo solo con i wide body. Wide body sarebbero 7, quelli 7. O a due piani o il Boeing enorme che ha preso il posto quelli del Jumbo. Che tengono, esatto. Assolutamente. Quindi o l'A380 che è quello a due piani o il Boeing 777. Esatto. Non avete, insomma. No, per i piccoli non ce li abbiamo. L'MD80 lo lasciate alla meridiana. No, va esatto. Bene. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. minuti. Allora, al di là dell'accordo che è un primo passo, noi siamo sempre qui a tifare per un'Italia sempre più competitiva nel portare fuori gli imprenditori e i turisti, ma nel portare dentro anche turisti e investitori. Dicevo, al di là del collegamento, alcuni mi chiedono: ma come fa a arrivare il treno a Malpensa su un aerovia? Ma ragazzi, scusatemi, c'è già il binario per Malpensa, le ferrovie nord già collegano da Cadorna, per cui si tratterà, insomma, non faccio l'ingegnere ferroviario, ma si tratterà di allargare la tratta già esistente. Non penso che non arriva il treno sull'aerovia, dai, per favore. Allora, invece veniamo alla competizione che vi arriverà in casa, visto che l'Unione Europea ha dato via libera al 40% di Etihad Abu Dhabi dentro all'Italia. Allora, le proporzioni, voi dicevo siete penso l'unico gruppo, forse Cathay, non so, perché i due grandi colossi in questo momento, sì, siete voi e Cathay Pacific, sì, no? A volare praticamente solo con i wide body, cioè gli enormi aerei, ne avete 227, avete 51 A380. Sono diventati 54, correggo perché ogni settimana ne arrivano. Comprate, e avete ordinativi per altri 300 aeromobili, cioè 140 miliardi di dollari. 49 voli settimanali per Milano, Roma e Venezia, appunto i tre aeroporti che voi utilizzate. Come dimensioni, a parte che avete fatto più 12% di fatturato l'anno scorso, a 13 miliardi di euro quasi, che è una cifra imponente, e l'utile a 600 milioni di euro. Dicevo, come dimensioni voi siete 2,5-3 volte Etihad anche come passeggeri trasportati, però è inutile girarci attorno. Insomma, come vi state attrezzando? Perché gli Emirati Arabi, intesi come Abu Dhabi, hanno detto: noi punteremo su Fiumicino per il Sud America, e l'Inate probabilmente sulla loro aerostazione più forte, che è Düsseldorf, sì, con Air Berlin. Con Air Berlin, e da lì per gli Stati Uniti, e poi chiaramente per chi vuole invece andare a Abu Dhabi va a Abu Dhabi e usa quello come hub per l'Asia. Certo. Voi? Ma noi questo lo facciamo già da un po' di tempo, nel senso che, come lei ha ricordato, noi non mi dica però che non subirete. No, assolutamente. Sicuramente la concorrenza ci sarà una concorrenza che si arricchisce, perché Etihad è un partner importante che si sposa con un vettore comunque importante dal punto di vista di presenza locale come Alitalia. Questo è poco ma sicuro. Noi, come da tradizione, noi abbiamo una logica un po' diversa dalle altre compagnie aeree, comprese Etihad. Noi non siamo mai cresciuti con acquisizioni, stiamo crescendo organicamente, non facciamo parte di nessuna alleanza. Ecco, noi è per questo che non avete voluto voi all'Italia? È uno dei motivi, sì. Non è stato un motivo legato alla singola Alitalia, è che Emirates come politica preferisce crescere organicamente. Questo per continuare ad investire sul servizio che noi diamo al nostro cliente e sulla coerenza di servizio. È lo stesso motivo per cui non facciamo parte di alleanze. Noi non siamo in nessuna alleanza, perché preferiamo che il cliente sia sempre gestito come lo vogliamo gestire noi. Preferiamo continuare a crescere, aggiungere aerei. Lei ha ricordato i numeri della nostra flotta e della flotta che sta arrivando da adesso ai prossimi anni ne avremo un 3,80 al mese. Noi già oggi abbiamo il 45% su due piani, esatto. Noi già ad oggi abbiamo il 45% della flotta dei 380 a livello mondiale e della flotta Emirates, quindi noi stiamo continuando a investire in questo per continuare a crescere. Etihad ha fatto una scelta totalmente diversa, che è quella di continuare a crescere organicamente ma accelerare la crescita, essendo partita più tardi ed essendo di dimensioni, come lei ricordava, inferiori, di entrare in partecipazioni in varie compagnie. Da come la capisco io, noi per anni abbiamo regalato a Lufthansa e a Air France, se vogliamo, perché Air France era partner, però anche Air France, abbiamo regalato i viaggiatori più ricchi che avevamo, cioè Nord Italia, manager o imprenditori che andavano in viaggio d'affari, oltre che turismo, per carità, però in Asia e non solo, o anche se dovevi andare in Brasile, in India, identico. Questo è stato un grosso errore strategico che appunto l'Italia ha pagato, perché nel frattempo poi partiva l'alta velocità Milano-Roma e la gallina dell'uovo d'oro diventava stitica. Detto questo, adesso è chiaro che l'Italia e Etihad cercheranno di rubare, di riportare chi era abituato ad andare a Monaco di Baviera, a Francoforte o a Parigi, riportarlo in Italia. Cioè, voi avete intenzione di fare lo stesso? Noi facciamo lo stesso, nel senso che noi ovviamente noi abbiamo il nostro hub, che è quello di Dubai, per cui tutte le rotte che vanno ad est, per quanto ci riguarda, passano da Dubai. Da tutta Europa si passa a Dubai e poi si continua verso il continente asiatico. Quello anche un senso, perché sei già verso est, perché siamo già lì, esatto. Mentre per quanto riguarda il resto del mondo, noi abbiamo l'unica eccezione peraltro in Italia che esiste in questo momento in Europa per quanto riguarda il mondo Emirates, di un collegamento che parte da un paese dove Emirates non è presente come sua sede principale, quindi non parte da Dubai e non arriva a Dubai, che è il nostro Milano-New York, che operiamo anche giornalmente, sette volte a settimana. Che non passa, chiaramente non passa da Dubai. Perché parte da Dubai, si ferma a Milano e poi continua per andare a New York. Quindi abbiamo già un primo tentativo. Ma non potreste fare lo stesso, chiedo, anche su Washington, Detroit? No. Sarebbe carino farlo, nel senso che noi stiamo analizzando, senso che da Dubai dati, per andare comunque a Chicago, Detroit, non è, cosa fate? Il Pacifico? Un viaggio lunghino, sì, assolutamente. Noi in questo momento operiamo il volo più lungo al mondo, che sono 16 ore, perché facciamo Dubai-Los Angeles, quindi arriviamo fino addirittura dall'altra parte con il 380, è il volo più lungo al mondo in questo momento. Non ti passa più 16 ore. È lunghina. Comunque, vabbè, al di là di questa mia considerazione inutile, dicevo, quindi voi avete già un volo che dà senza passare per Dubai, ovviamente, anzi, che porta passeggeri Dubai-Milano-New York. Esatto. Il fatto che, ripeto la domanda, che Abu Dhabi e quindi all'Italia con la livrea anche di Etihad, non che avrà la livrea di Etihad, ma insomma con la quota Etihad, punterà molto Roma per verso Sud America e un po' di America, e poi Malpensa, Venezia e in parte anche Linate, che daranno alcuni voli diretti, altri invece su Düsseldorf, non vi spaventa un po'? Sicuramente aumenta la concorrenza, questo è innegabile, sarebbe abbastanza miope non ammetterlo, ma il fatto che ci sia concorrenza, vede lei, Dubai e Abu Dhabi sono a pochissime ore di distanza, come faceva notare lei, e sono a 6 ore di volo circa da dove vive più o meno il 70% della popolazione mondiale, che tanto è il mondo che sta emergendo, per cui primo pensiamo che ci sia domanda a sufficienza da soddisfare a più di un vettore, secondo noi partiamo comunque da una posizione di concorrenziale sul mondo italiano in questo momento di leadership. Noi abbiamo 49 voli alla settimana che i nostri concorrenti non hanno, quindi e abbiamo una clientela fidelizzata. Noi puntiamo sul servizio e continuiamo a puntare su aumentare la nostra capacità sul mercato italiano. Proprio recentemente noi abbiamo introdotto a fine agosto il secondo 380 a Roma, a fine ottobre abbiamo introdotto il terzo volo su Roma, prima ne avevamo solo due al giorno, e dal primo dicembre apriamo il 380 anche su Milano. Per andare dove? Tutto su Dubai, tutte le rotte che vanno verso Dubai, perché vediamo che c'è mercato, e per esempio da Roma ha iniziato a volare Etihad verso luglio, e questo non ha intaccato la nostra capacità di crescita, ha semplicemente aggiunto un nuovo operatore che peraltro sta volando. Se ho ben capito, dite che c'è così tanta richiesta, richiesta che reggete, chiaro, anche l'A380, appunto, che è un aereo doppio, cioè, su due piani. Noi in questo momento ne abbiamo due su Roma, uno su Milano da partire dal 1 dicembre, siamo l'unica compagnia che opera con 380 in Italia. Ecco, mi dica un'ultima cosa, perché insomma io non l'ho mai capito, ci sono le compagnie europee che vanno malissimo in generale, hanno tutte difficoltà, Air France stessa adesso ridurrà la quota in Italia, ma un bilancio tutt'altro che bello, e poi ci siete voi e Cathay Pacific che andate benissimo. Allora, il motivo è solo il fatto che operate sui nuovi ricchi, mi può dire anche sì, cioè tutta la ricchezza si sta generando in India, Indonesia e Cina, poi qualcosa anche in Brasile, però insomma, oppure c'è qualcosa in più? Secondo me è una questione, sicuramente il fatto che il mondo si sta arricchendo da un'altra parte e non qui è evidente, però è anche secondo me un modello operativo, nel senso che noi abbiamo per generazione, non essendoci un mercato interno, essendo Dubai una città di 2,5 milioni di persone che fino a 20 anni fa, 30 anni fa neanche non esisteva. Non abbiamo un mercato interno da soddisfare, per cui siamo nati fin dalla nascita come voli intercontinentali, e lì c'è mercato, lo diceva anche lei prima, una delle penalizzazioni di questo paese è stato il fatto di avere impoverito i nostri collegamenti intercontinentali. Il problema delle compagnie europee classiche, primo che si portano dietro una storia di decine e decine di anni, quindi sono compagnie legacy, devono soddisfare il mercato interno, memoria, lei diciamo, ha citato prima il caso dell'alta velocità, l'alta velocità ha, come diceva lei prima, ha reso sterile la gallina delle uova d'oro, però era naturale forse puntare lì se uno non guardava al futuro, per cui i collegamenti nazionali che prima producevano denaro e che invece stanno riducendo, collegamenti europei dove le low cost fanno da padrona, per cui anche lì bisogna correre dietro le low cost dal punto di vista delle tariffe, il territorio più protetto è quello dei voli intercontinentali. Allora adesso ho il traffico, poi vado alla borsa, però le volevo chiedere un'ultima cosa dopo il traffico, cioè qual è la critica più forte che viene fatta quando lei si incontra con gli altri manager? Voi quanti voli operate da Dubai a livello mondiale? Noi colleghiamo 147 destinazioni in 89 quindi paesi. Ci sono più o meno 147 suoi colleghi. Assolutamente, no, 89 diciamo. 89 suoi colleghi. Ecco, vorrei capire qual è l'immagine, lo chiediamo a tutti i manager o gli amministratori delegati o gli imprenditori che intervistiamo quando hanno una proiezione internazionale, qual è l'immagine, i punti di forza o di debolezza che emergono nel suo vissuto concreto. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. A 7:52 minuti, allora moltissimi messaggi, evidentemente c'è una parte d'Italia che ci tiene a essere collegata anche infrastrutturalmente. Dunque, scrivono molti ascoltatori: voi siete competitivi perché il carburante lo pagate una miseria, in effetti. Non è e quindi ve lo regalano? Non è esattamente vero, no. Noi paghiamo il carburante come gli altri, difatti nel nostro bilancio vediamo il fluttuare del profitto a seconda del prezzo del carburante. Ma come state nella penisola arabica? A Dubai non ce n'è più, il petrolio a Dubai è finito, ad Abu Dhabi ce n'è ancora tanto, ma noi l'abbiamo finito, per cui paghiamo il petrolio tanto quanto gli altri. E poi vabbè, un dettaglio, quanto ci si mette a imbarcare il 380 a fare il boarding? 3 ore? No, non penso 3 ore. No, noi da quando atterriamo, da quando cominciamo a sbarcare i passeggeri a quando ripartiamo passano meno di 2 ore. Noi abbiamo un'efficienza operativa quasi da low cost. Ma quanti finger, quanti diciamo passerelle, i finger, il ponte che collega diciamo l'imbarco all'aereo? Sul 380 c'è un ponte per la prima classe, un ponte per la business e 2 per l'economy, per cui è estremamente efficiente. Più che... esatto. Vabbè, allora rapidamente, prima di chiudere, come chiediamo a tutti gli imprenditori, manager, amministratori delegati che intervistiamo quando hanno una proiezione internazionale, quindi operano su vari mercati, punti di forza e punti di debolezza nella sua esperienza, anche quando si confronta con i suoi colleghi tedeschi, thailandesi. Siamo visti, se mi permette una battuta, siamo visti un pochettino come quando si va a parlare con i professori dei propri figli che vanno a scuola, no? Che dicono sono intelligenti ma non si applicano. Ecco. Questo sintetizza molto il modo in cui siamo visti. Siamo un paese dall'enorme potenziale, soprattutto turistico. Lei ha citato tante volte l'incoming, dove noi stiamo facendo un po' di programmi con Regione Lazio e Regione Lombardia per portare un po' di turisti in Italia. Dal punto di vista economico, in particolare Dubai, basta aprire qualsiasi cosa che abbia un marchio italiano e quel posto si riempie. Purtroppo però si vedono anche i nostri difetti, che sono molto, molto evidenti. Ma lei quando si confronta con i suoi colleghi, qual è la cosa che invidia di più e quella che invece dice no, tutto sommato ci siamo? Quella che invidio di alcuni colleghi di alcuni paesi è l'estrema organizzazione del paese, in cui quando inizi qualcosa hai la certezza di quello che stai facendo. Qua di quello che mi piace del nostro paese, continuo a esserne innamorato, è la creatività, per cui riusciamo in qualche modo ad andare avanti, però quando poi si compete a livello globale non è necessariamente sufficiente. In una battuta, perché devo veramente chiudere, ma non è che non si riesce o non si rischia di non esportare il Made in Italy se poi chiedono agli ascoltatori la quantità, la percentuale del socio rilevante straniero? Un vettore aereo è anche, attraverso il cibo e quello che vende, è anche il primo ingresso, il primo approccio a un paese. Assolutamente, però se l'investitore, come penso sia questo il caso, è intelligente, l'italianità la sfrutterà. Voi non avete cibo italiano, però noi abbiamo molto cibo italiano, vendiamo molto vino italiano a bordo. Bene, tifiamo per il vino italiano di tutto. E il cibo italiano. Allora grazie, in bocca al lupo. Grazie come a lei, tutti buon noi pomeriggio. Siamo bipartisan, tripartisan con tutte le compagnie, basta che vadano. Grazie al direttore generale giornale di Emirates Italia, Fabio Maria Lazzarini. Grazie. Dopo GR24 la borsa che ha chiuso con un rialzo dello 0,70%, quindi il miglioramento nel finale, il miglior titolo Buzzi Unice in più 6,20%, GR24. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa e poi vediamo anche di darvi gli aggiornamenti sull'incontro ad oltranza tra sindacati e AST di Terni, intesa sia come e il Ministero dello Sviluppo Economico come Ministro Guidi. Allora, per quello che riguarda la borsa, oggi più 0,70% la chiusura finale di Milano, che la porta in linea sostanzialmente con il resto d'Europa. Più 0,86% Parigi, più 1,60% invece Francoforte, Londra più 0,56%, l'America più 0,24%. Molto bene Buzzi Unicem più 6,20% e Jux. Da qui partiamo con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore come sempre. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Buzzi Unicem e Jux, ma anche le banche, perché Buzzi Unicem più 6,20, Jux più 4,20, la Pop Milano più 2,70, Pop Emilia Romagna più 1,80, Unicredit più 1,5, Banco Popolare più 1,36 e poi Intesa più 0,60. E per quanto riguarda Buzzi Unicem ci sono due fattori: da una parte un report degli analisti di Exane BNP Paribas che giudicano l'investimento in Buzzi un buon modo per scommettere sulla ripresa economica degli Stati Uniti, vista la cospicua esposizione di Buzzi sul mercato delle costruzioni americano, e dall'altro diciamo il fermento dell'intero settore costruzioni europeo in vista dell'arrivo sul mercato degli asset che la Svizzera Holcim deve vendere prima di fondersi come previsto con la Farge. Quindi Buzzi ha guadagnato il 6,18%, ma ad esempio anche Italcementi ha fatto addirittura ancora meglio, salendo dell'8,91%. Per quanto riguarda Jux, il rialzo è stato del 4,17% e ha seguito l'annuncio che il fondatore e amministratore delegato Federico Marchetti è salito nel capitale della società al 7,8% dal precedente 5,3% dopo aver esercitato delle stock option, quindi un segnale di fiducia che è piaciuto al mercato, che diciamo ha seguito la mossa dell'amministratore delegato. Come ricordavi tu, le banche sono state poi in gran parte positive, continua qui l'effetto di Draghi. Ieri l'annuncio della disponibilità, se sarà necessario, da parte della BCE a comprare anche bond sovrani, l'eccezione è MPS che ha ceduto l'1%, qui sono prevalsi i realizzi dopo il buon andamento di ieri. MPS naturalmente rimane sotto i riflettori vista la situazione della banca e le speculazioni su possibili alleanze in futuro. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, Mediaset oggi debole, meno 1,13%, appunto Monte dei Paschi già tu la citavi, meno 1%, Telecom meno 1, su Telecom oggi l'amministratore legato Patuano ha detto abbiamo avviato un percorso per una public company, quindi con un azionariato diffuso. Anche la composizione del board, maggioranza formata da indipendenti, va in questa direzione, lavoriamo tutti per l'azienda. E vabbè, mentre per quello che riguarda il Monte dei Paschi, il presidente Profumo ha detto che aspettano una risposta dalla Banca Centrale Europea sul piano per l'aumento di capitale. Ancora tra i titoli invece, citavamo in apertura i dati buoni sulle immatricolazioni auto a livello europeo e buoni anche per Fiat, il titolo? Sì, il titolo ha reagito bene, visto che Fiat FCA per la prima volta da qualche mese ha fatto meglio del mercato. Sì. E quindi il titolo in borsa ha guadagnato l'1,7%, le immatricolazioni sono salite dell'8,4% contro il più 6,5% del mercato. Dunque Paolo, Finmeccanica invece è arrivata l'offerta di Itachi per Ansaldo Breda, però il titolo si è mosso molto molto poco oggi, sì, diciamo, anzi ha perso lo 0,60 alla fine. Sì, alla fine è stata una seduta un po' volatile, quella di Finmeccanica era partita male sull'ipotesi che non fosse arrivata nessuna offerta e quindi il processo di vendita potesse slittare, poi è arrivata a guadagnare oltre un punto quando invece la società ha confermato che ieri è arrivata l'offerta di Itachi per Ansaldo Breda, ma sul finale diciamo che l'effetto si è molto smorzato, infatti poi il titolo ha chiuso in calo dello 0,6%, diciamo che si attende di capire intanto i dettagli economici della proposta e poi di vedere se Finmeccanica riuscirà a vendere anche l'altro asset in vendita, cioè il 40% di Ansaldo STS. Sì, certo. Allora, migliori e peggiori oggi in borsa, con AFI Prestito più 28, 17, Sintesi più 21, RG Capital più 17, Mondadori più 16%. Ci sono novità su Mondadori? Ma diciamo che Mondadori, dopo la trimestrale di giovedì, si è visto un rafforzamento di tanti fondi esteri nel capitale e questo ha sostenuto oggi, in particolare che appunto è arrivata notizia di questi rafforzamenti, ha sostenuto il titolo a più 16 e ha trascinato anche tutto il resto del comparto editoriale, infatti Cairo più 8,7, Espresso più 8, RCS più 7, anche sulle 24 ore più 7,5. Infatti stavo per citare anch'io Cairo, Espresso e Sole. Italcementi più 8,90, Stefanel più 9,21. Fronte opposto invece Key Group meno 4,20, Sacom meno 4,11, Cattolica Assicurazioni meno 2,90%, De'Longhi meno 2,44%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Il traffico. Focus Economia. Allora, nessuna novità, è ancora in corso l'incontro, iniziato in mattinata, poi si era interrotto ora di pranzo tra sindacati, azienda e ministro Guidi, oltre al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, oltre al sottosegretario del lavoro Teresa Bellanova. Ricordo che dopo l'incontro di ieri dei sindacati con i vertici in Germania di ThyssenKrupp, ThyssenKrupp ha fatto sapere che vuole comunque rilanciare, ha rinviato lo spegnimento del secondo altiforno, quello che era stato deciso nel piano di luglio, a 2 anni, e però ha detto anche di non volere gli aiuti statali. Oggi, da quello che abbiamo capito, il tema riguarda quello che a cui sta puntando il sindacato, l'ho detto lo stesso segretario generale della FIOM Maurizio Landini, è elevare il limite dei 2 anni per lo spegnimento del secondo altiforno. Vedremo se arriveranno notizie nei prossimi 10 minuti. Invece notizia c'è sul fronte di un settore produttivo di cui ci occupiamo abbastanza, forse non abbastanza, per essere onesti e autocritici, e mi riferisco all'agricoltura italiana, che comunque rappresenta quasi il 10% del nostro PIL. Se ci aggiungiamo la distribuzione siamo al 15%, conta 2 milioni di imprese e 3 milioni e 200 mila persone che vi lavorano. Oggi si è fatto il punto, assieme anche a una ricerca di Nomis, ma lo ha fatto la Confagricoltura nella prima conferenza di Agri Insieme, dove si è fatto il punto sia su come ha reagito l'agricoltura a questi anni di crisi, in realtà come la chiamiamo noi ormai di rivoluzione strutturale, ma anche come va l'export. Siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Dunque, ha tenuto meglio di altri, insomma, questa è un po' vuole la vulgata, il settore agroalimentare, perché il Made in Italy va bene, perché i prodotti agroalimentari vanno bene, perché il vino, che è una delle voci fortissime del nostro agroalimentare, continua a marciare successi, a innescare successi a livello di export. Quindi da voi la crisi si è sentita meno? Beh, certamente l'agricoltura è un settore anticiclico e quindi è vero che abbiamo retto più di altri settori nel corso degli ultimi anni, ma è altrettanto vero che oggi alla prima conferenza economica di Agrinsieme, il raggruppamento di Confagricoltura, CIE e l'Alleanza Cooperativa, abbiamo presentato una ricerca che ha questo titolo: dai falsi miti alle vere opportunità per il settore agricolo. Ovvero abbiamo voluto, con numeri alla mano, sfatare alcuni grandi miti che fanno dell'agricoltura italiana un settore a volte troppo autoreferenziale e che vive, diciamo così, dei miti dell'eccellenza italiana, senza tener conto che il mercato globale è un mercato competitivo su cui noi dobbiamo lavorare. Ecco, perché voi avete avuto comunque una crescita del valore aggiunto dal 2007 al 2013 a prezzi correnti del 6%, mentre, faccio un esempio, nel settore manifatturiero abbiamo un meno 18%, nelle costruzioni un meno 11%. Però vorrei capire, siete riusciti a compensare il crollo dei consumi alimentari? Perché non ho altri termini, quando tu passi in 5 anni a un meno 14%, tra cui anche pane e cereali meno 16, carne meno 14%. Dicevo, siete riusciti a compensare questo crollo con l'aumento dell'export? No, non siamo riusciti perché non siamo ancora così attrezzati, e il focus che abbiamo voluto fare noi oggi è proprio sul fatto che il mercato domestico, il mercato italiano, ma anche quello europeo, ormai non sono più mercati sufficienti ad assorbire il Made in Italy e le eccellenze italiane, e quindi tutto il ragionamento che abbiamo fatto oggi ci porta a mettere in campo tutta una serie di richieste che servono al rafforzamento competitivo delle imprese e delle cooperative agricole, perché interpretiamo il mercato dei nostri prodotti come il mercato del mondo, su cui perdiamo quote di mercato, perché spesso ci riempiamo la bocca della crescita e dell'importanza dell'export agroalimentare, che quota 30 miliardi di euro, ma stiamo perdendo quote di mercato. 10 anni fa eravamo al 3,3% del mercato mondiale e oggi siamo al 2,3%, quindi sono meglio di noi, sanno fare i tedeschi. Sì, questo è incredibile, nel senso che i francesi a 43 miliardi di export ce lo potevamo anche immaginare, sono bravi, fanno sistema, vendono tutto, sono bravissimi nel marketing, però quello che veramente, ma non perché sia la Germania, perché uno dice la Germania ha tante qualità, ma mai immaginerebbe che abbia un export di prodotti alimentari, quelli trasformati, doppio di quello italiano, 54 miliardi contro i 27 nostri. Allora lì però, Guidi, un po' di autocritica forse anche per voi. Certamente. Sul nanismo, io dico sempre, un conto è essere piccoli e un conto è essere nani. Piccoli è un alimento fisiologico, tu sei inserito in una filiera, a monte, a valle, non mi interessa, fornisci un prodotto a qualcuno, magari sei piccolo, ma fornisci un prodotto di nicchia, quindi vai bene. Nano è un elemento patologico. Allora, qui probabilmente un'azienda agricola italiana mediamente ha un valore della produzione di 29.000 euro contro i 42.000 euro della Spagna, i 140.000 euro della Francia e i 170.000 euro della Germania. Forse è per questo che i tedeschi esportano più agroalimentare di noi, o no? Esattamente così, dobbiamo costruire un sistema agricolo più forte, quindi che è orientato alla crescita, crescita dimensionale che puoi ottenere incrementando la dimensione economica delle singole imprese, ma anche proiettandole nella cooperazione e quindi nell'internazionalizzazione. Qualcuno diceva oggi sovrastrutturati per il mercato italiano, sottostrutturati per il mercato internazionale, e qui un po' di autocritica ci sta sicuramente, nel senso che le politiche che noi abbiamo promosso non sono state orientate verso veramente la competitività. Si tratta di accettare che la globalizzazione sia un elemento di opportunità e strutturarci per questo. Per cui sì, però dico, al di là di questo, come si fa poi a aumentare le dimensioni? Perché noi lo chiediamo ogni volta, non è che tu possa obbligare le aziende agricole a fondersi, e no, sappiamo che nel mondo italiano, prima di fare un accordo di partnership, di joint venture, in tutto il mondo delle imprese le resistenze sono fortissime, quindi? Ma la crisi fa venire meno anche qualche resistenza, e quindi il tempo è quanto mai opportuno. Ci sono nuovi strumenti però, come le reti di imprese, che mantengono l'individualità giuridica delle imprese, ma che si possono mettere assieme per progetti dimensionalmente efficaci. Allo stesso modo, consentire o aiutare il sistema cooperativo italiano a capitalizzare le cooperative e quindi a crescere è un buon elemento per surrogare il semplice acquisto di terreno, che è quasi improponibile per le nostre aziende al giorno d'oggi. Ci sono tutta una serie di strumenti, si tratta di mettere a disposizione veramente delle imprese e far crescere una cultura della crescita, una cultura di un'agricoltura che vuole crescere e che non si accontenta di rimanere un settore marginale o romantico. Su questo è intervenuto anche il ministro Martina, sentiamo al microfono il nostro Francesco De Remigis, anche annunciando un piano per premiare i giovani che si mettono nell'agricoltura, no? Una volta si diceva braccia rubate all'agricoltura, adesso dopo quello che abbiamo visto fare la finanza di Wall Street e della City, io direi braccia rubate alla finanza, ma questo è un altro tema. Martina. Anche qui abbiamo fatto dei passi concreti in questi mesi. Il piano giovani che abbiamo presentato con Campo Libero, con il progetto Campo Libero, già contiene alcune proposte molto operative. Penso ai mutui a tasso zero, penso alla detrazione del 19% per i giovani imprenditori agricoli che vogliono affittare nuova terra per condurla. Penso al programma di investimenti che abbiamo presentato e che in particolare sulle start-up agroalimentare mette a disposizione una serie di risorse significative. Penso alla premialità che abbiamo per la prima volta definito con i fondi europei. Noi abbiamo da quest'anno 80 milioni di euro dedicati allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura ed è la prima volta che l'Italia sperimenta concretamente uno strumento di questo tipo. Allora, Presidente Guidi, mi dica una cosa, quanto sta pesando invece, ce lo chiedono anche gli ascoltatori, l'embargo alla Russia, perché pesa su tanti settori e anche in particolare sul vostro, però vorrei gli ultimi dati. Gli ultimi dati sono di qualche centinaio di milioni di euro, non siamo ancora arrivati al pieno dei 700 milioni che è il valore complessivo dell'export agroalimentare verso la Russia, ma temiamo molto il periodo invernale in cui molti prodotti, diciamo così, una concorrenza indiretta fatta da altri paesi UE che non potendo esportare in Russia si riverseranno i loro prodotti sul mercato domestico e sul mercato tedesco in particolare, che è il mercato elettivo per i prodotti italiani. Penso all'ortofrutta, ma penso anche al latte e alle carni. Mi scusi Guidi, ma è vero che, mi scrive un ascoltatore, non lo so, che da gennaio le quote latte saranno libere? Sì, è così. Finisce, ma come, abbiamo fatto tutta... Ok, prego. Finisce un periodo, un lunghissimo periodo di controllo della produzione di latte a livello UE che ha garantito anche una certa stabilità, ma la Commissione europea ha ritenuto che il meccanismo nel settore del latte, dello zucchero, del vino, in tutti i settori dovesse essere completamente liberalizzato e quindi dobbiamo attrezzarci di conseguenza. Allora, in bocca al lupo anche a tutti gli agricoltori italiani. Oggi stiamo cercando di dare un po' in attesa dell'ICT di Terni, dopo cercare di capire cosa capiterà col Jobs Act, di dare un po' anche di speranza non retorica e non fittizia. Grazie al presidente degli agricoltori di Confagricoltura, chiaramente Guidi, e adesso Mario Guidi, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi, sperando di poter commentare anche una vicenda che riguarda la ST di Terni, chiusa e chiusa in maniera positiva. Intanto, buona serata. Radio 24, la passione si sente.